Capitolo 9. Terra della calma mattutina, luglio e agosto 1950. 13 luglio. Questo è uno dei peggiori luoghi a cui sia mai stato inviato. E la Malacca, la Nuova Guinea e l'Indonesia messe insieme. David non ha potuto sopportarlo e se n'è andato questa mattina. Quanto a me, vedo e sento tutta questa bruttura. Ma vi è un'altra parte di me che è ancora in grado di considerare tutto ciò da un punto di vista tecnico, e cioè come un lavoro giornalistico da compiere, il meglio e il più completamente possibile. Mi sento trasportato indietro di 8 anni al periodo in cui ero corrispondente di guerra presso un comando americano. Difficoltà di comunicazioni, emozioni destate da certi eventi e da certi spettacoli. Uomini terrorizzati, uomini che soffrono, innocenti travolti da terribili avvenimenti che non possono capire, il contrasto tra le bellezze naturali e le azioni umane a cui fanno da scenario, il passato tanto lontano e il futuro ancora più remoto. È come se già fossi passato attraverso tutto questo. E i coreani sono così brava gente. Molti ci hanno già rimesso la vita e a volte temo che ne resteranno ben pochi. Quando questa spiacevolezza sarà finita. 14 luglio. David è partito in aereo per Tokyo e mi ha promesso di impostare questa mia lettera. Ogni notte dormo per terra e mio malgrado sto abituandomi a riposare sul duro e senza guanciale con cinese disinvoltura. Che altro mi sta accadendo? Non lo so. E con tutta probabilità non lo saprò se non molto più tardi. Ho visto cose orribili e crudeli che purtroppo non mi sono nuove, ma anziché farci il callo mi sembra di diventare più sensibile man mano che invecchio. I coreani mi fanno un'enorme pena, lunghe file di profughi sulle strade, gente terrorizzata, donne con bambini piccoli, madri separate dai loro figli, bambini che portano i fratellini sulle spalle. Le donne mi fanno pensare a te, forse perché ho il ricordo mentale di Su Yen che compie lo stesso viaggio in Cina durante la guerra. E ora, attraverso il mio amore per te, i coreani mi sono meno stranieri della mia stessa razza. È quest'ultima che mi è diventata straniera. È umiliante essere coinvolti in una disfatta ed è umiliante aver paura. Fa male all'orgoglio il dover sgomberare da un luogo dove rimangono migliaia di uomini che hanno l'ordine di combattere fino alla morte. Sono partito ieri da Taizhong appena in tempo. Oggi i nordisti vi hanno fatto il loro ingresso. Gli americani hanno commesso un grosso errore sottovalutando l'opposizione. Ci sono vecchi generali confusionari del tipo che l'esercito inglese è sempre costretto a mandare allo sbaraglio nei primi 2 anni di guerra, a costo di migliaia di vite umane. Ci sono truppe senza esperienze e male addestrate che non hanno ancora passato la prova del fuoco e che non sanno che cosa significhi una ritirata. Un giovane è scoppiato in lacrime alla vista di un morto. Il primo che vedeva. Alcuni uomini lasciano le trincee e si danno alla fuga. Un comandante di reggimento, energico e attivo, ha dovuto piantarsi sulla strada 2 miglia dalle linee per rimandare indietro gli uomini. Chi vi ha dato l'ordine di uscire? Tornate indietro! Vi sono soldati così nervosi che considerano ogni coreano come un nemico e a volte sparano contro i profughi, uccidendoli. Ma vi sono anche dei veri soldati, calmi e solidi come roccia. 15 luglio. Ieri ho intervistato Shin Ham Rae, un vecchio di 75 anni, capo della banda di émigré, che circa 4 anni fa è stata apposta al governo della Corea meridionale. Anche il suo ministro degli esteri è un émigré. Vissuto per 38 anni lontano dalla Corea, vi è ritornato l'anno scorso. Questa è la gente a cui ci affidiamo in Asia. Qui Rae, Quirino alle Filippine, Chiang Kai-shek e la sua banda. Bao Dai, che ci ormaglia. Nel nord c'è il regno del terrore, corti del popolo a tutt'andare, sebbene sia difficile appurarne la fondatezza, credo che ci sia una buona dose di verità nei resoconti di uccisioni e di epurazioni nel nord. Il modo con cui i sudisti trattano i prigionieri è spaventoso. A interi gruppi, stipati nei camion, gementi e urlanti, i prigionieri politici vengono portati in un luogo solitario ed eliminati. Tornando ieri sera, molto dopo il coprifuoco, mi sono imbattuto in una processione di 2000 persone che venivano portate in prigione a file di quattro, con una mano legata a una lunga fune e l'altra che stringeva la camicia di quello davanti. Erano molte donne e alcune portavano i bambini sulla schiena. Uno spettacolo orribile, orribile. Da entrambi i lati, a ogni 10 passi, montavano la guardia i poliziotti con le baionette in canna. Perché mai gli esseri umani si fanno queste cose a vicenda? Arrivando qui, una sentinella americana, nervosa ed eccitata, che evidentemente si credeva circondata da nemici, ci puntò addosso il fucile, e tuttavia, insieme a tutte queste tristezze, c'è la gentilezza, la cordialità e la generosità degli americani. Ti rivedrò mai? Sento di no. Non posso credere che 2 settimane fa eravamo insieme per parlare, passeggiare e amarci. Ero tanto felice. E adesso posso pensare a te soltanto in termini metaforici. Porta del mio roseto, centro stabile di me stesso al centro del ciclone. Voglio vederti ancora e spero che il destino ce lo concederà, ma spesso sento che non ti rivedrò più. 17 luglio. Nicolas, l'altro mio collega, è partito oggi per il fronte, per vedere quello che gli sarà possibile vedere. Io ho deciso di fermarmi ancora per scrivere un articolo basato su 3 interrogativi. Perché la Corea settentrionale ha invaso il sud? Come mai il servizio segreto alleato non ha funzionato? Che gioco giocano i russi? Quello che mi rende perplesso è il fatto che la Russia non desidera una guerra atomica. Potrebbe anche non essere l'istigatrice dell'attacco nordcoreano, ed io sono di questo parere, sebbene tutti qui la pensino diversamente. Ma avrebbe potuto impedire la guerra se lo avesse potuto. Perché non lo ha fatto? Naturalmente questa faccenda ha rivelato la scarsa preparazione e la debolezza dell'America, ma dal punto di vista americano credo che non avrebbe potuto accadere niente di meglio. Ora non perderanno più tempo. Ricordo quello che accadde nella Nuova Guinea. Da principio si comportarono in maniera penosa e gli australiani dovettero intervenire in loro aiuto, ma non tardarono a imparare la lezione. Rimandarono a casa un centinaio di ufficiali e quando le loro truppe entrarono di nuovo in azione si comportarono egregiamente. Il nome che i coreani danno alla loro terra significa calma mattutina. È un nome grazioso, ma singolarmente inadatto al momento attuale. 20 luglio. In Europa gli eserciti avanzavano da un castello all'altro attraverso la Francia e la Germania. Qui in Corea ci ritiriamo da una scuola elementare all'altra. Io scrivo le mie corrispondenze su minuscoli banchi destinati a bambini più piccoli di me. Il mio posteriore è già mal ridotto dal gran ballonzolare che faccio nella jeep, su strade accidentate, e le sue lamentose condizioni non vengono certo migliorate dall'ingranchimento a cui mi costringono questi orribili banchi, spaventosamente piccoli per la mia mole. Ho quindi dovuto rendermi personalmente e dolorosamente conto dell'assoluta mancanza di scuole superiori in Corea. Finora ho sempre dovuto dormire per terra, ma il pavimento di ieri sera era uno dei più duri che mi abbia mai offerto ospitalità e anche il più brulicante di insetti. Mi sento un po' stanco. Questa mattina per la prima volta ho avuto disturbi intestinali, ma credo che ciò sia dovuto ad alcune mele acerbe che ho mangiato. Me le avevano offerte 2 soldati coreani e le avevo accettate per non avvilirli, ma non è nulla di serio. Sono ritornato dal fronte in un vagone ferroviario carico di soldati coreani feriti. Era un vagone di seconda classe, dai sedili tutti sdruciti, barelle improvvisate, feriti gravi trasportati su stuoie di paglia o deposti a terra. In carica 2 o 3 ufficialetti medici terribilmente giovani. Nel vagone di prima classe, dietro al nostro, i feriti americani stavano più comodi ed erano meglio curati. Comunque, suppongo che quei coreani si trovassero sempre in condizioni migliori dei feriti cinesi dell'altra guerra. Sono contadini vigorosi e tenaci che non si lamentano mai, come i cinesi e i giapponesi. Quando calò la notte, rimanemmo al buio. Lo stare racchiusi nell'oscurità, con tutta quella sofferenza, dà una strana sensazione. 23 luglio. In questi ultimi giorni mi sono sentito molto depresso e infelice, ma sono accadute due cose che mi hanno fatto piacere. Prima di tutto l'arrivo della tua lettera, la numero 2, e in secondo luogo quello del mio amico Prasad giunto questa mattina. È un piccolo malabari, con un notevole stato di servizio di guerra. Lo ammiro molto e mi è molto simpatico. Lo incontrai per la prima volta nel 41 e poi nel 44, nel 45, nel 47. Fin dal principio lo ammirai moltissimo per il suo coraggio, per la sua intelligenza e onestà, per la completa obiettività che dimostrava parlando degli indiani e degli inglesi. Ho imparato da lui tante cose. Fu lui a spiegarmi la mentalità semplice dei sepoys e quella degli ufficiali indiani con le loro delusioni, il loro idealismo e la loro complessità. Prasad per l'India, il mio amico Han per la Corea, lo conobbi in Giappone nel 1933, Tomoji Murakata per il Giappone, e ora medico a Hokkaido e ho intenzione di fargli visita prima di lasciare il Giappone. Tu per la Cina e per molte altre cose, tutti siete stati per me porte aperte sul mondo. Suppongo che soltanto così, attraverso l'amore, si possa giungere al primo barlume di comprensione. Dio solo sa perché Prasad è venuto qui. Le sue spiegazioni, compreso quella che il rappresentante già designato si era fatto male a un piede e non poteva venire, non sono affatto convincenti. Evidentemente ha mosso mari e monti per essere inviato qui, perché non voleva mancare lo spettacolo. Mi sembra di sentirti mormorare in tono di rimprovero, arricciando il naso, proprio come te, Mark. Anche tu non sai resistere a una guerra. Essendo questo un teatro di guerra, Prasad è giunto bardato di tutto punto. File di nastrini, mostrine rosse da colonnello, occhialoni, berretto marrone. Prasad mi ha confidato che sua moglie gli ha preparato le valigie in modo meraviglioso. Non ha dimenticato nulla. Ci ha messo persino una copia della Bhagavad Gita. Tu che libro sceglieresti da mettermi in valigia se dovessi partire per la guerra? 24 luglio. Che cosa ti posso dire di questa guerra, di questa orribile guerra? Tranne io, tutti sembrano credere che la vinceremo. Questo pomeriggio il colonnello K mi ha dichiarato che sarà finita entro poche settimane. Un generale americano, Fusan, prevede che il vento incomincerà a girare tra 2 giorni. Così si va avanti e io mi trovo isolato nel mio pessimismo. Ma chi sono io per opporre la mia opinione a quella di persone tanto importanti? La mia unica consolazione è il pensiero che sarei felice di sbagliarmi e di riconoscere che gli altri hanno avuto ragione. Sto leggendo un libro intitolato L'ultimo puritano di George Santayana. Te lo manderò non appena l'avrò finito. Non che sia facile starsene seduti a leggere un libro, per buono che sia. Non è facile trovare la serenità necessaria e pochi nella mia professione riescono a immergersi tranquillamente in un libro in mezzo a tanta convulsa agitazione. Non mi sento a mio agio con gli americani in generale. Mi fanno sentire terribilmente diverso e terribilmente inglese. Spesso quando faccio loro una domanda mi guardano senza capire e mi pregano di ripetere quello che ho detto. Molti di loro sono grassi e ben nutriti, tuttavia non si può negare loro tenacia, idealismo e un'immensa vitalità. Hanno soltanto bisogno di essere temprati dalle privazioni e dal dolore. Sono immensamente gentili e premurosi e il loro modo di esprimersi risulta spesso brillante ed efficace. Un soldato, piccolo ebreo di Brooklyn, mi ha detto ieri: il mio morale è talmente basso che non potrei rialzarlo nemmeno con una gru. Quando il mio amico giapponese Tomoji Murakata fu chiamato alle armi nei primi anni della guerra cinese e inviato in Cina come medico militare, alcuni nostri amici comuni di Singapore ricevettero una sua cartolina con una sola frase. All'incirca questa: il mio corpo è sano e forte, ma lo spirito e il cuore. Sto cercando di escogitare una frase del genere per te, sapendo che anche tu comprendi il valore del vuoto e della rinuncia, il fascino dell'assenza. La lingua giapponese è piena di costruzioni grammaticali in cui il vero significato è contenuto nella metà non detta della frase. Così, se si vuole dire che un tale è un mascalzone, ci si limita ad osservare: è una persona affascinante, ma tre puntini. È molto più significativo così. Adesso devo smettere. Anch'io, come te, mi sento in uno stato di animazione sospesa. Non c'è futuro, non c'è passato, ma soltanto lo spiacevole presente. E per quanto profondamente cerchi di seppellirmi nel mio Santayana, ci sono troppe cose orribili che premono su di me e mi fanno violenza. 28 luglio. Questa mattina sono davvero désolée. Ho perduto il mio ultimo puritano in treno e mi mancavano ancora un'ottantina di pagine da leggere. In questi ultimi 10 giorni Santayana mi aveva impedito di impazzire in mezzo a tutta questa folle bestialità. Era meraviglioso potersi appartare per leggerne alcune pagine e speravo di potertelo mandare quando lo avessi finito. Mi riportava alla mia gioventù, mi faceva ricordare i miei primi amori. E leggendolo mi ero reso conto che fino ai 20 anni soltanto uomini avevano contribuito alla formazione del mio carattere e che soltanto attraverso il sesso maschile avevo scoperto me stesso e il mondo. L'unica parte che non mi ha convinto è quella che narra come il giovane cerchi di sposare una ragazza impossibile di nome Edith. Naturalmente l'effetto di Santayana su di me è stato aumentato dalle circostanze in cui l'ho letto: pazzia, terrore, odio, menzogna, sofferenze, brutalità battono alla porta della mia consapevolezza e si aprono di forza una strada dozzine di volte al giorno. Può darsi che Nicholas venga a Hong Kong. Ti piacerà poiché è simpatico, intelligente. Il suo giornale vuole che valuti le possibilità strategiche di Formosa. Strana richiesta da fare a un uomo nel centro della giungla coreana. Ogni volta che ci siamo trovati sullo stesso fronte, Nicolas ed io abbiamo sempre lavorato insieme. Non so se sappia di te, può darsi. Avrei voluto parlargli di te, come desidero fare con tutti gli amici che mi sono cari, ma non ne ho ancora avuto l'occasione, forse perché ha una mentalità così europea che trova ben poche cose che lo interessino o l'attraggano a est dei Balcani. Pare ci siano ben 200 corrispondenti americani su questo teatro di guerra. La maggioranza è alla ricerca di documentazioni di eroismi personali e ben pochi si fermano a lungo. Io sono orgoglioso del nostro piccolo gruppo britannico formato da inglesi e da australiani. Ti prego di non preoccuparti se verrai a sapere che abbiamo avuto perdite anche fra i corrispondenti di guerra. Due sono stati uccisi sulla costa orientale, quattro perduti in un incidente aereo e uno a Taizhon, uno disperso. 29 luglio. In questi ultimi 5 giorni ho seguito la prima divisione di cavalleria impegnata in duri combattimenti. La luna era meravigliosa, ogni notte un poco più grande. Si alzava sempre più sulla sinistra, mettendoci maggior tempo a raggiungere gli alberi sulla destra. 2 volte, come per un rito, ho letto la tua lettera alla sua luce. E ieri sera, meraviglie delle meraviglie, non soltanto ho potuto disporre di un lettino da campo, ma mi è anche stato possibile sistemarlo davanti alla finestra e alla nostra amica Luna. Tuttavia, non sono riuscito a capire se fosse veramente piena o no. Non so come descriverti il mio stato d'animo. Sento il desiderio di essere solo. Particolarmente in questo momento in cui davvero non riesco a comprendere perché siamo qui e perché dobbiamo infliggere tanti orrori a questi poveri coreani. Ma che diable allait-il faire dans cette galère? Mi viene voglia di chiedermi. Il pensiero e la consapevolezza di te mi danno uno strano senso di fiducia, quasi di invulnerabilità. Colui che ha conosciuto la felicità, o che, come nel mio caso, ha amato ed è entrato nel roseto, non potrà mai essere distrutto. Ma ciò non mi rende invulnerabile a quelli che convenzionalmente vengono chiamati gli orrori della guerra. Ti potrei dire molte cose sulla paura, come sia contagiosa e relativa, come ci si senta sicuri sotto a un bombardamento quando si è scampati al fuoco dei fucili e dei mitra. È come una piccola trincea, sembra un solido rifugio antiaereo. E quando finalmente ogni fuoco tace, il senso di sollievo è meraviglioso. Non sono diventato invulnerabile alle sofferenze dei poveri coreani presi fra due eserciti, e ciò sebbene faccia il possibile per anestetizzare la mia sensibilità. Gli americani vicini al fronte considerano nemico qualsiasi civile coreano e non si fanno scrupolo di sparare. L'altro giorno ritornavo su di un autocarro carico di armi quando l'autista vide due vecchi che avanzavano faticosamente attraverso i campi di riso a circa 300 metri di distanza, chini sotto il peso di enormi fardelli. Fermò l'autocarro, balzò a terra e corse verso di loro impugnando il fucile, seguito dal giovanissimo soldato di guardia alle armi. Mi ci volle qualche minuto prima che mi rendessi conto delle loro intenzioni. Non uccideteli, sono vecchi! Gridai allora. Anche a quella distanza si vedeva bene che erano vecchi. Uno di essi portava in capo lo strano cilindro nero caratteristico dei vecchi coreani. Fortunatamente i due soldati si limitarono a far loro disfare i grossi fardelli che contenevano riso. E poi li lasciarono andare, ma molti giovani soldati, sempre troppo pronti a premere il grilletto, li avrebbero uccisi. Provai un enorme sollievo alla pacifica conclusione della faccenda, ma l'autista mi fece poi capire che mi considerava un inglese rammollito ed io non potei fare a meno di pensare a George Sherston nel Fox Hunting Man, allorché grida: Non inseguitelo, sta cercando di fuggire! E perde così la stima del suo amico Dennis. 30 luglio. A volte mi chiedo se questo intervento americano non finirà per stabilire le basi per l'unità della Corea. Gli americani non si stanno facendo molti amici qui. Ieri ho compiuto parte del viaggio in treno insieme a truppe americane. Prima della partenza un maggiore venne ad annunciare: Uomini, questo treno è riservato alle truppe americane. Se qualche Gook tentasse di salire, prendetelo a calci. Gook è lo spregiativo con cui indicano i coreani. Giorno per giorno, coi loro bombardieri, gli americani radono al suolo cittadine e villaggi, uccidendo 50 pacifici abitanti per ogni soldato. Nei villaggi conquistati dai comunisti non mancheranno certo gli attivi partecipanti ai comizi che si alzeranno a condannare i salvatori, gli alleati che hanno causato più danni e sofferenze che non i nemici dichiarati. Credi che in Cina ci siano oggi coppie di amanti che si adattano a compiere tutti i gesti del conformismo, pur vedendone la follia essenziale, l'assurdità e la menzogna? Che preservano un'integrità interiore soltanto per loro stessi, che possono conversare tranquillamente la notte a letto e ridere piano e andare insieme a fare lunghe passeggiate, o pensi che non possano resistere a lungo e che anche loro finiscano con lo scoprire di poter amare soltanto il Grande Fratello? Mi domando se ci rivedremo. Io devo stare qui fino alla fine. Per quanto possa sembrare strano, non sono preoccupato per il futuro. E sebbene sia spesso infelice per molte cose, non lo sono mai per te. Anzi, accade proprio il contrario. Evidentemente, se Dio intende riunirci in avvenire, saremo riuniti. Altrimenti. Nella tua lettera mi dici di essere in uno stato di accettazione. Spero che questo stato ti permetta di continuare a trovare cose belle e positive nelle quali imparare, approfondirti e crescere. È come tu dici, l'amore si fa adulto. 31 luglio. Ho detto a Nicholas che trovo molto difficile vedere questo conflitto in termini morali, e cioè come giustizia e diritto da parte delle Nazioni Unite e come brutale aggressione da parte della Corea settentrionale sostenuta dal blocco sovietico, sebbene l'aggressione ci sia effettivamente stata. Gli ho detto che mi è difficile non considerare questo conflitto semplicemente come Russia e satelliti contro Stati Uniti e satelliti, e che raramente uso la parola nemici, parlando dei nordisti coreani, anche se a volte mi scappa. Nicholas ha sbattuto le palpebre in quel suo strano modo tutto particolare e mi ha dichiarato, balbettando leggermente con quella sua vocetta stridula: Mark, se non ti offendi, ti dirò che mi sembri un po' rimbambito. E per un'ora ha cercato di convincermi, portandomi gli argomenti più ortodossi e convenzionali. Tu che ne pensi? Non riesco a considerare i rapporti fra nazione e nazione in termini di giusto e sbagliato, di buono e cattivo. Quando rientra in questo genere di rapporti, la moralità non è più che un aspetto o un fattore della potenza. 1º agosto. Fusan, perché penso tanto a te in questi ultimi tempi? Le donne coreane non sono affatto belle, ma a volte un profilo, uno spruzzo di lentiggini, un'attaccatura di capelli mi ricordano te. Sono venuto al porto di Fusan con Charles, un giovane francese di belle maniere e gentilmente cinico. Non mi piace il comunismo, mi ha detto, ma non mi piacciono nemmeno molte cose che vengono fatte in nome dell'anticomunismo. Charles mi ha raccontato di aver viaggiato con David qualche tempo fa, tra Taizhong e Taizhou. Il povero David provò una tale pietà per i profughi che a un certo momento spalancò la porta del vagone, riservato al personale e ai corrispondenti americani, e li invitò tutti a entrare, spendendo poi tutta la valuta locale che aveva in tasca per comprar loro mele, meloni e riso, distribuendo tutte le sue sigarette e cullando un bambinetto sulle sue ginocchia per tutto il tragitto. Ora sono qui, seduto sul molo in attesa dell'arrivo dei Marines. Ci sono due bande musicali ad attenderli, una enorme composta di militari coreani e l'altra di negri che soffiano a più non posso nei loro strumenti, morendo dalla voglia di suonare un po' di jazz. I Marines saranno immessi nel conflitto là dove la minaccia è maggiore. I neri non hanno saputo resistere, stanno ora contorcendosi in una frenesia di jazz hot, sebbene la nave non sia ancora in vista. Con questa atmosfera da carnevale sul molo è difficile rendersi conto che i nordisti sono a meno di 45 miglia a est di qui e che avanzano continuamente. I neri sembrano felici. Il freddo della terra e 15 duri inverni si sono tramutati in primavera da quelle colline scure. Fedele è lo spirito che ricorda dopo questi anni di cambiamenti e di sofferenza. No, non posso citare oltre Emily Bronte con questa musica negli orecchi. I neri passano dal jazz a marce terrificanti. Ora stanno suonando Colonel Boogie. 3 agosto. Charles ed io siamo ritornati ieri notte. Abbiamo dormito per terra, su di un autocarro da trasporto. Soldati, neri, coreani, erano sdraiati un po' dappertutto. Il ristretto spazio era permeato da un odore di feci e di tanto in tanto, nel buio, un calcio in pieno viso mi svegliava di soprassalto. Charles è simpatico. Ride spesso e non sembra mai agitato o impaziente. Avevamo una bottiglia di whisky che Davide ci aveva mandato da Tokyo e ci è stata di grande aiuto. Ho ricevuto una bella lettera. David, che mi acclude quelle che gli hai inviato. Amor mio, che belle lettere scrivi agli altri oltre che a me. Gli americani odiano questa terra, che li colpisce per la sua sporcizia, sebbene sia assai più pulita della Cina. Quelli che hanno già combattuto in Europa sentono la mancanza dei locali notturni, delle belle ragazze e di tutte le cose piacevoli che si possono trovare dietro le linee in Europa. Eccoti alcune frasi udite per caso. L'intero paese non vale una scarpa rotta. Si può sapere per che cosa stiamo combattendo? Vorrei che qualcuno si degnasse di venire a spiegarmi perché facciamo questa dannata guerra. Io cerco di mantenere una certa serenità interiore. Avrei potuto andare da quel soldato a spiegargli quello che voleva sapere, perlomeno ho qualche idea in proposito. È come disse François: Il faut dire aux hommes. Pourquoi ils doivent se faire tuer? Bisogna dire agli uomini perché devono farsi ammazzare. 4 agosto. Le cicale cantano in crescendo e poi in diminuendo fino al silenzio quasi completo. Anche nella giungla si trova questo ciclo di suono. Ma ho il cuore pesante. Si tratta di una malattia puramente professionale e forse è ora che me ne vada a Tokyo per qualche giorno per cambiare un po' ambiente. Credi che ci ritroveremo mai? Qualche volta abbiamo aperto gli occhi insieme e abbiamo visto sorgere l'alba, ma non abbiamo mai potuto svegliarci sapendo di avere davanti a noi l'intera giornata, né tantomeno una settimana o addirittura il futuro. Eppure siamo stati molto fortunati e forse Dio sarà ancora buono con noi. Poco fa ci hanno letto il bollettino delle operazioni aeree. L'aria di compiaciuta importanza con cui l'ufficiale addetto a questa mansione commenta i bombardamenti di cittadine, di villaggi e gli incendi che radono al suolo intere zone me lo rende odioso. Quando descrive gli episodi più sanguinosi, parla con evidente orgoglio, con un piacere lento ed enfatico. Senza dubbio una giornata da record. Il grosso del bombardamento è stato effettuato in questa zona. Molte cittadine in quest'area sono state rase al suolo. Alcuni nordisti si erano rifugiati sotto un tunnel, ma i nostri ragazzi hanno fatto un buon lavoro e non se li sono lasciati scappare. Hanno gettato una bomba a un'estremità e quando hanno visto che il fumo incominciava a uscire dall'altra, hanno bloccato anche questa via d'uscita con un'altra bomba. Orrore! Orrore! Orrore! E in questo modo, Su Yen, dicono che tu ed io siamo folli perché ci amiamo, sogniamo e non sappiamo odiare. Un pilota ha rapporto. Cadaveri di nordisti sono disseminati per tutta la zona come coriandoli. Gli autocarri schiacciano i morti perché l'intera area non è che una distesa di corpi. Da principio non riuscivo a capire cosa fossero quelle cose bianche. Allora mi sono abbassato e ho visto che erano nordisti morti vestiti di bianco. Come faceva a sapere che erano nordisti? Oggi in Corea soltanto i civili sono vestiti di bianco. Molto probabilmente si trattava di profughi in cammino. Stupidità, bestialità, odio, cattiveria. Come reagisce a queste cose la persona superiore, Su Yen? È inutile fuggire, inutile cercare di farsi una corazza di insensibilità, come fanno molti. Suppongo che anche questo faccia parte della follia e dell'imbecillità umana che dobbiamo vedere chiaramente e integralmente, pur rifiutandoci di accettarle. Tu sei a contatto con la sofferenza, ma puoi fare qualcosa per alleviarla. A me sembra invece di non poter far altro che stare a guardare. 5 agosto. Ti prego, non tormentarti per me. Non sono infelice, anzi spesso sono persino felice. L'organismo umano ha una miracolosa capacità di adattamento. Ci sei sempre tu, sorgente prima di felicità. E poi ci sono gli amici che significano molto di più in circostanze come queste. C'è la luna e il fiume del cielo, ci sono le soddisfazioni personali, ci sono i libri e le poesie, le albe e i tramonti, c'è il mangiare, il bere, il fumare, il togliersi la polvere dal corpo sotto un getto d'acqua fredda, tutte cose che procurano un piacere cosciente. E inoltre vi sono i barlumi di bellezza sul volto della gente. Oh, mia adorata, se continuo ancora con questo elenco finirò col convincermi che la Corea è un vero paradiso per gli edonisti. 6 agosto. Perché ti ho scritto ogni giorno? Perché sento che potrebbe venire il momento in cui non potrò più scrivere nemmeno a te. Ieri mi è capitato tra le mani un numero di Stars and Stripes, vecchio di 4 giorni, e mi è sembrato di entrare in un manicomio. Pazzia, pazzia! Il mondo precipita lungo la china delle sue disillusioni. Ieri è arrivato un altro amico. Sta leggendo la storia della guerra del Peloponneso di Tucidide. A bruciapelo mi ha detto: temo che questa sia la fine del nostro mondo, Mark. Ed è anche il tuo mondo, Su Yen, sebbene tu possegga la chiave di molti mondi e io uno solamente. Se sono triste, non è perché tema per qualche orribile, impenetrabile cortina che possa piombare di colpo tra noi, dividendoci, ma piuttosto perché desidero che tu scriva quei libri che hai dentro di te e non vedo come potresti farlo se non nel mio mondo. Ma non parliamone più, poiché non è questo forse un desiderio che presuppone una certa quale mia autorità di padrone su di te, autorità che entrambi siamo d'accordo nel ritenere sorgente di tanti mali? Forse, se non lo importuniamo troppo, e se non esigiamo nulla, Dio, che è già stato tanto buono con noi, vorrà esserlo ancora. Trovo strana quell'animazione sospesa che mi dici di essere il tuo stato d'animo attuale. E nulla del passato e del futuro, la sottile corda tesa sull'abisso del presente. Che aspetti? Che accadrà? Lo sai tu? 8 agosto. In guerra, tre spettacoli mi turbano sempre: quello dei prigionieri, dei profughi e dei feriti. E tutti per la stessa ragione: l'indegnità della loro condizione. Oggi siamo passati davanti a un autocarro in cui erano racchiusi 10 prigionieri nordisti, giovani dalla testa rasata, con le mani saldamente legate ai fianchi del camion, con piastrine di riconoscimento appese al collo. Anche i feriti portano al collo la loro piastrina. La differenza fondamentale tra la filosofia del mondo comunista e quella del mondo non comunista è forse data dal fatto che in uno di essi è concesso agli uomini di essere individui, mentre nell'altro non sono considerati che organismi con un'etichetta intorno al collo. Ma forse questo mondo sovraffollato e affamato è ormai diventato così complicato, e la sua organizzazione di vita economica risulta così difficile che le etichette sono indispensabili entrambi, non so. E tu? 9 agosto. Prasad, che è venuto poco fa a trovarmi dopo il suo ritorno da Tokyo, mi dice che laggiù tutti sono ottimisti per quello che riguarda la guerra coreana. La distruzione e la sofferenza in Corea sono già su tale scala che sia nella mente del coreano comune, come in quella delle persone colte, medici, insegnanti, trascendono ogni questione ideologica. L'aviazione americana sta sistematicamente radendo al suolo tutte le cittadine di una certa importanza. Taichung e Kinchon sono state completamente distrutte e presto sarà il turno di Taiju. Il riso matura nei campi e fra poco sarà il tempo del raccolto, ma chi ci penserà? I coreani intelligenti considerano tutto questo come una lotta per la supremazia tra due potenze mondiali. Sfortuna della Corea è stata quella di costituirne il campo di battaglia. Sua tragedia, il fatto che il popolo coreano ne sta pagando il terribile prezzo. Si teme la vendetta che i nordisti si prenderanno certamente sui sudisti, benché in questi ultimi tempi i nordisti siano diventati più moderati e tendano a comportarsi sempre più come i cinesi al loro primo avvento al potere lo scorso anno. Il pensiero della vendetta che i sudisti si prenderebbero sul nord è ancora più terrificante. Se andassi a intervistare il ministro degli esteri coreano mi farebbe certo una dichiarazione magniloquente, ma nel suo intimo c'è molta amarezza. E il sapere che il suo governo dipende dagli americani non fa che rendere tale amarezza più dolorosa. È avvilente essere costretti ad accettare denaro e aiuti da altri, e di questo si stanno accorgendo anche i cinesi di Formosa. Secondo me, i coreani nordisti dovrebbero trasformare questo conflitto in lotta nazionalista e unificare il popolo della Corea in un unico ideale di resistenza agli interventi occidentali. E forse è proprio quello che avverrà. In Corea ci sono moltissimi incisori di sigilli, perché, come il cinese, il giapponese, il coreano ci tiene a possedere il proprio sigillo. Charles ed io rimanemmo a lungo in una bottega di incisore e senza volerlo mi trovai a fargli una formidabile concione sull'argomento. Gli spiegai come in Cina, quando un uomo e una donna si amano, si facciano fare un sigillo dalla stessa pietra con nomi di loro scelta, quello dell'uomo in rilievo e quello della donna inciso. E allorché egli mi chiese che genere di nomi scegliessero, io gli risposi, cercando di apparire indifferente: «Oh, nomi come Ala di Primavera e Bellissima Ala!» Come avrei desiderato venire in Oriente quando era ancora possibile entrare in Cina. Egli esclamò. 10 agosto. Il piacere di rivedere gli amici, un whisky, una tranquilla conversazione nel buio. Niente luna, ma tante stelle e il fiume del cielo che scorre lucente. E poi dormire, dormire, dormire avvolto nella mia magica coperta portafortuna. Ogni comodità è sempre relativa e il piacere e la gioia aspettano soltanto di essere presi al volo. Ma ora devo voltarmi dall'altra parte e scrivere un pezzo per il giornale. Chiudo la porta di un mondo e apro quella di un altro, e chi può dire quale sia il vero? Suppongo lo siano entrambi. Oppure che entrambi siano ugualmente illusori. Non credi, Su Yen, che tanto tu che io abbiamo la tendenza a venire colpiti da follia lunare in pieno sole? 11 agosto. Posso darti un pensiero per oggi? In questo mondo gli uomini devono venire salvati dalla loro mancanza di fede. Me lo ha citato Nicolas questa mattina. Sono stato al fronte con Prasad. Abbiamo parlato dell'India e ancora una volta mi sono detto che se non potrò andare a lavorare in Cina, mi piacerebbe vivere in India. Oggi è arrivato B. Arrogante, pugnace, divertente se preso a piccole dosi. Per prima cosa mi ha chiesto a bruciapelo: scusatemi, ma siete orgoglioso di lavorare per il vostro giornale oppure ve ne vergognate? Non mi sembrava il caso di considerarla un'offesa e così gli risposi ridendo: né l'una né l'altra cosa, credo. Non ho mai lavorato per altri giornali. Confesso di non sentirmi affatto attirato dalle severe teorie conservatrici che emette a getto continuo. Oggi deplorava violentemente che avessimo regalato via l'India. Ha già conosciuto tutti i pezzi grossi, compreso il generale MacArthur, e Nicholas mi ha detto che sembrava che lui e MacArthur si fossero fatta un'ottima impressione reciproca. 12 agosto. La più bella cosa che tu mi abbia mai detto è che nel tuo cuore mi attenderai sempre. Lo stesso pensiero è venuto a me molte volte da quando sono qui. Che cos'è l'amore? Lo sai tu? Mi hai dato alcune risposte, ma mi hai posto anche molti interrogativi. Ieri notte a letto cercavo di richiamare alla memoria quella poesia di Francis Thompson che si intitola O mondo intangibile. Ne ricordo soltanto una parte. Penso che già la conoscerai, ma lascia che ne trascriva qualche riga per te. The angels keep their ancient places. Turn but a stone and start a wing. Tease your estranged faces that miss the many splendid thing. Gli angeli mantengono i loro vecchi posti. Basta girare una pietra per sentirsi spuntare le ali. Siete voi. Sono i vostri visi diventati stranieri che non sanno vedere la cosa dai molti splendori. Non c'è da stupirsi che io sembri sempre così riservato, poiché porto dentro di me l'amore per te, fontana viva e inesauribile di felicità, che innaffia e rende fertile la mia esistenza. Qualcuno mi disse una volta che è una tragedia non essere amati. Ma la vera tragedia non è invece quella di non amare. Oh, Su Yen, sono così felice. I nostri visi non sono diventati stranieri. Tu ed io abbiamo saputo vedere e vivere la cosa dai molti splendori.